Nel corso dei secoli è avvenuta una trasformazione del messaggio del Vangelo, ma in modo così lento che quasi nessuno se ne è reso conto. Un po' come l'esperimento della rana. È stato dimostrato che mettendo una rana in un pentolino di acqua portato ad ebollizione lentamente, la rana ne esce solo quasi a ebollizione completa. Del resto anche noi se ci buttiamo sotto ad una doccia con l'acqua calda non riusciamo a resistere. Invece, facendo salire l'acqua alla stessa temperatura ma in modo graduale, e mentre siamo già sotto la doccia, possiamo anche sopportarne il calore. Quando penso come possiamo sopportare ogni cosa purché questo venga lentamente, ho presente le gonne delle donne. Quando ero giovane le donne avevano le gonne lunghe fino a 5 cm da terra, poi queste si portarono fino sotto alla caviglia. In seguito la moda impose alle donne di portare le gonne sopra al ginocchio, fino quando non si arrivò alla minigonna. Le persone avrebbero sopportato il cambiamento brusco da una gonna lunga fino a 5 cm da terra alla minigonna. La società della mia fanciullezza avrebbe sopportato il cambiamento da un vestito che copriva ogni millimetro di pelle, alla moda di oggi che impone un vestiario che mette in mostra l'ombelico e gran parte del corpo, perfino gli indumenti intimi? Certamente no, perché nessuno sopporta cambiamenti repentini di nessun genere, tanto meno nel campo religioso. Quando ero giovane, tutti i sacerdoti cattolici romani indossavano un abito a sottana, mentre oggi i sacerdoti per lo più portano i pantaloni. Ricordo come molte persone anziane nel vedere i sacerdoti con i pantaloni proclamarono lo scandalo, ma con il passare del tempo si abituarono a vedere sacerdoti vestiti in vari modi. Ma queste sono quisquiglie, ciò che importa sono invece i contenuti della fede cristiana. Quando questi vengono meno allora ci è proprio da preoccuparsi. Un aspetto allarmante in merito alla fede cristiana è che il Vangelo si è lentamente trasformato da un annuncio con un contenuto liberatorio ad un esame psicologico. Non è che sia del tutto sbagliato usare un poco di psicologia perché un accostamento psicologico può aiutare, ma quando questo metodo va a discapito del messaggio evangelico stesso, allora occorre fermarsi e ritornare alle origini di un messaggio che abbia un contenuto storico e salvifico. Per dimostrare che il Vangelo di oggi è impostato spesso su ragionamenti psicologici, prendo in esame una riflessione tratta da un periodico evangelico. Viviamo in una società consumistica dove molto spesso nelle nostre case il superfluo diventa indispensabile e quando l'indispensabile dacci oggi il nostro pane quotidiano diventa superfluo, facilmente si cade in una specie di sonnolenza cristiana che ci porta sovente a dimenticare chi purtroppo il pane quotidiano non l'ha. Riflessione è più che giusta, riflessione è appropriata e azzeccata, ma sembra che il messaggio evangelico sia improntato a interessarsi maggiormente degli aspetti negativi di una persona e ai nostri atteggiamenti psicologici nei confronti della vita, piuttosto che insegnare alle persone cosa devono e non devono fare, ricordando loro inoltre il valore insostituibile dell'opera di Cristo Gesù. La maggioranza dei credenti non si rende conto che dopo la nascita di Freud e della scuola di psicanalisi da lui avviata, tutti siamo portati a predicare un Vangelo che mette enfasi sull'esame delle ragioni del nostro comportamento più che annunciare il risultato positivo di ciò che Gesù ha fatto. Noi spieghiamo al peccatore che se non crede in Cristo a causa del proprio condizionamento culturale, consoliamo il prossimo dicendo che se uno commette adulterio la colpa è del coniuge. Spieghiamo ai credenti che se non sono consacrati è perché sono frustrati o delusi. Predichiamo la parola di Dio alle persone e le illudiamo dicendo che una vera fede le libererà da ogni problema. Ma un simile modo di parlare e di predicare il Vangelo non trova un riscontro nella predicazione evangelica dei primi cristiani. Le questioni psicologiche e i problemi della vita esistevano anche prima della nascita di Freud. Che gli uomini avessero delle difficoltà nell'accettare il Vangelo o avessero scompensi emotivi era un dato assodato. Eppure non troviamo nelle lettere di Paolo accenni moralistici al fatto che il superfluo diventa indispensabile o che l'indispensabile diventa superfluo. Queste sono valutazioni introspettive che tra l'altro possono essere anche pericolose. Se invece leggiamo attentamente gli scrittori biblici, notiamo che essi si limitavano a ordinare ciò che si deve e non si deve fare. Ecco un esempio. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. 1 Tessalonicesi 4.36. Molto probabilmente qualche credente avrà avuto delle difficoltà causate da problemi psicologici, ma davanti alla volontà di Dio non esistono mezzi termini, o si obbedisce o non lo si fa. Punto e basta. Trovare delle motivazioni psicologiche per non fare la volontà di Dio è la scusa dell'uomo del XXI secolo. Il cristiano è chiamato a predicare il Vangelo e non una sorta di un discorso psicologico, poiché oggi notiamo quanto si è perso di vista in che cosa consista il Vangelo, cito un'eccellente riflessione di uno studioso. Il termine Vangelo, buona novella, non è un termine cristiano, ma un termine già usato nel mondo greco-romano prima che fossero scritti i Vangeli canonici, per il fatto che il mondo antico non aveva un'economia di libero mercato. Molto spesso ciò che oliava gli ingranaggi della società e del commercio era la generosità delle persone di alto rango. Gli imperatori in particolare erano esaltati per la loro magnanimità e per i loro trionfi. Il Vangelo era dunque la buona novella di tutto ciò che l'imperatore o qualche altra persona potente faceva a beneficio del popolo. Per questa ragione i benefattori per lo più non erano esaltati per i loro grandi pronunciamenti filosofici o per la loro saggezza. Quando i primi cristiani presero in prestito il termine Vangelo avevano in mente la buona novella rappresentata dalle cose che Gesù aveva fatto, tra le quali c'era anche una parte del suo insegnamento. Per esempio, il primo Vangelo Marco è sostanzialmente pieno di fatti. Si concentra sulle azioni di Gesù. È difficile che i primi cristiani potessero considerare Vangelo una semplice collezione di insegnamenti, senza un resoconto dell'azione salvifica di Gesù. Se ci soffermiamo un attimo a esaminare i sermoni riassuntivi che si trovano nel libro degli Atti degli Apostoli, per esempio nei Cap 2:13, o ci rivolgiamo ai più antichi documenti del Nuovo Testamento, le lettere di Paolo, per esempio Filippesi 2:5-11, scopriamo che le prime prediche su Gesù si concentravano sulle sue azioni e sulla sua identità. Sia i primi predicatori sia i primi Vangeli, cioè i Vangeli biblici, concordano nel ritenere che una buona novella, per essere tale, debba includere i fatti che Gesù compì in favore degli altri, in particolare la sua morte e la sua resurrezione. Ben Witherington III, nel suo libro Il codice del Vangelo, edizioni GBU, 2006, pag. 130. Questo studioso ha messo in rilievo che il Vangelo di Cristo, per essere tale, deve contenere la storia di ciò che Gesù ha fatto e non tanto dei ragionamenti in merito alle motivazioni del nostro modo di comportarci. Molti credenti con mansioni pastorali spesso sono attenti a come risolvere i problemi dei fedeli, usando buone attitudini psicologiche, più che esprimendo un messaggio capace di produrre una vita abbondante e liberatoria. È l'opera di Cristo che deve cambiare le vite e non un ragionamento psicologico. La lenta trasformazione subita dal messaggio del Vangelo ha fatto sì che questo non produca più l'effetto per il quale ne è stata ordinata la proclamazione. Il Vangelo, come viene annunciato oggi, produce grandi effetti emotivi, riesce a trascinare grandi folle, viene ascoltato con piacere da persone appartenenti a varie religioni, ma la persona di Gesù, la sua opera e il suo insegnamento sono ricevuti solo a livello intellettivo. Il Vangelo delle Scritture annuncia che Gesù è nato da una vergine, e questo viene rifiutato. Annuncia che dopo aver vissuto senza commettere nessun peccato, Gesù è stato crocifisso perché dichiarava di essere Dio e che il terzo giorno egli è risuscitato, ma anche questo non è creduto. Il Vangelo delle Scritture annuncia anche il perdono totale dei peccati da parte di Dio, mediante nessun merito da parte dell'uomo, ma unicamente grazie all'opera compiuta da Cristo. Anche questo però è negato. Le persone sono pronte ad ascoltare gli insegnamenti di Gesù, le sue bellissime parabole in merito alla pecorella perduta o al figlio prodigo. Ma al di là del benessere psicologico che ricevono, gli ascoltatori rimangono sempre gli stessi. Per un periodo di tempo ho avuto occasione di sentire raccontare contemporaneamente una parabola, sia nei locali di culto, sia nel corso di programmi televisivi, né anche sentito voce tramite email. Questo solo perché la morale di questa parabola era psicologicamente costruttiva e di conforto. Tutto questo sarebbe più che da incoraggiare, se non fosse che alla fine ognuno rimane col peso dei suoi peccati, ognuno continua a negare la resurrezione dei morti, Gesù non è ritenuto Dio da adorare e servire, ognuno continua a portare pesi e peccati inutilmente. Il vero Vangelo è un messaggio con un contenuto principalmente storico, capace di rendere libero chi è schiavo del peccato, capace di dare la certezza del perdono totale di tutti i peccati, capace di produrre una speranza eterna nel presente e nel futuro anche dopo la morte. Se il Vangelo di Cristo non produce un totale cambiamento di vita in chi vi pone fede, allora si è ricevuto un Vangelo psicologico che è come una bella canzone d'amore, ma inefficace a produrre una nuova vita. L'Apostolo Paolo così riassunse il messaggio del Vangelo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. 2 Corinzi 5.17. Ciò che produce di nuovo il Vangelo di Cristo non sono i sentimenti o gli atteggiamenti psicologici nei confronti della vita, meno anche se ovviamente il Vangelo produce anche questo, meno, ma è un rinnovamento totale dell'uomo interiore. Per dirla in breve, non si tratta di dipingere di celeste una catapecchia inabitabile, ma si tratta di demolire totalmente la catapecchia e ricostruire una casa nuova. Solo in seguito alla sua restaurazione si darà alla costruzione una tinta di celeste. Chi ama Cristo il paradiso non si accontenterà dell'esteriore, ma offrirà se stesso senza riserve per essere trasformato nell'immagine di Cristo. Ottobre 2006. Ellero.